Buonasera. Buonasera. Le ribelli sono on air. Ci siamo. Sono le 17. Siamo presenti. Spero vada tutto bene, gente. Finora no problemi tecnici. Mamma mia, vediamo quanto duriamo. Lo dico solo perché ci sono io. Quindi non lo so, potrei essere elemento di distrazione. No, sei il portafortuna. Ah, ok. Grazie. Già dolcezza all'inizio, mio Dio. Godetevi il nostro jingle, a tra poco. Si se puso minifalda ni una menos, si se pintó los labios, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, si baila reggaetón, ni una menos, si te dejó por otro, ni una menos, si vuelve tarde a casa, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. Menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, cabrón, ni una menos. Segrete che non vedete. Sì, siamo tornate. Presenti come sempre. Per una nuova puntata. Buonasera, compagni e compagne. Benvenuti. Siamo come al solito un poche in presenza e qualcuna connessa invece da remoto, in questo caso Tecla. Ciao Tecla. Ciao Beli. Ciao ladies. È bello che i nostri ascoltatori non sanno che noi ci stiamo vedendo. No. No, ma infatti noi ogni tanto spoileriamo un po' le cose che combiniamo in questo studio. Non sempre, però ogni tanto sì. Va bene ragazzi, io direi che innanzitutto buon pomeriggio a tutti, tutte e tutto, cari ribelli, benvenuti. Sono le 17.04, siamo più o meno puntuali e siamo in diretta su Radio ZM. Io direi che per prima cosa ricordiamo subito i nostri canali, cosa dite ragazze? Mi sembra un'ottima idea Tecla, brava. Ci provo, perché io dalla regia ti aiuto, non ti preoccupare. Allora, i nostri canali sono la pagina Facebook Radio ZAM, poi abbiamo il canale Telegram per scriverci in diretta, chiocciola Radio ZAM trattino basso chat. Perfetta. Yeah. E poi abbiamo il fantastico sito web www.zam-milano.it. Ma non è finita qui, perché abbiamo anche i canali Instagram. Ale, più due. Ale. Radio Zammi Sud, e poi se volete seguire le ribelli, la pagina le-ribelli-zam. Meglio di così non potevi fare. Sei stata bravissima. Direi 10 all'ode. E comunque, giusto per tenere aggiornati su cosa succede durante la videochiamata, è la seconda volta che rischiavo di cadere dalla sedia a rotelle, dalla sedia con le rotelle, mi stavo ammazzando. Secondo me prima o poi succederà, se sentite qualcosa sono io che se cado. Sentite un tonfo e sveva che è caduto dalla seggiola, che è un po' birichina e fa gli scherzetti. Stasera abbiamo anche una ribelle che non si è mai fatta vedere e sentire, che è Sveva, ragazzi, cioè. Ma vabbè, ma non è che non è mai stato così, se c'è un pubblico un po' veterano si ricorderà sicuramente di me e del fatto che alle prime puntate ero molto molto qui, non so come dire. E lei c'era. Sì, comunque no, sono venuta, ho detto dai, andiamo ad intrattenere le persone vicine, teniamo un po' di compagnia alla gente. Quanta dolcezza la nostra Sveva. Benissimo, ladies. Allora, io partirei subito con l'annunciare le tematiche di oggi. Vai, Tecla, dici di belle cosa parliamo. Succulenti. Allora, la prima parte della puntata sarà dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne in cammino verso il 25 novembre. Che ricordiamo, signori e signori, essere giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e di genere. E proprio in occasione degli eventi verso il 25 novembre, i collettivi femministi milanesi, come Non Una di Meno Degenerazione, propongono dei progetti sui social. E ricordo che basta seguire la pagina Non Una di Meno Milano e Degenerazione. Per poter stare sempre aggiornati, giusto ragazze? Bravissima. E invece per quanto riguarda la seconda parte della puntata, avremo come ospite, che tra l'altro è già connessa qui con noi, ma è in silenzio, ma c'è la fantastica e accattivante scrittrice, poeta, sottolineiamo, Stefi Pastori Gloss, con la quale faremo quattro chiacchiere. Come piace dire a Stefi, parleremo di violenza sulle donne con leggerezza, che non è superficialità. Direi. Partiremo dal libro Rinascite Ribelli, fino a toccare Parerga Violenti, detto spicileggio, avvenimenti pleonastici, perfino alla lotta contro la violenza sulle donne. Ragazze, sono tutte parole che poi ci spiegherà la nostra scrittrice. La vedo molto, molto densa questa puntata, molto ricca sì, e sorprendente sì, sì, di sicuro. C'è un bel calderone. E infatti io volevo sottolineare che quest'ultimo, appunto, Parerga Violenti suonerà come un po' strano e bizzarro, ma è proprio di linguaggio che andremo a parlare insieme a Stefi. Io direi che ora potremmo lanciare qualche canzone, o no ragazze, cosa dite voi? Ma sì, dai, così iniziamo a riscaldarci un pochettino e ci prepariamo per le prossime chiacchiere. Allora. Oh yes, dacci il primo titolo allora. Oggi mi hanno lasciato carta bianca sulla sequenza delle canzoni, quindi vado un po' a caso e a sentire, non lo so, spero vi piaccia. Ecco voi. Dai. Nati Peluso. Eccola. Inmerso centro como saliva del arce negro estás. Nunca te dije flaco, quédate conmigo, fuiste vos solo nomás. ¿Cómo pudiste negro no leerme? Te escribí por en mí no perderme. Duele la aguja fría ahora como agua sobre la frente perfora. Yo no quería nada más que estar pegaditos un rato. Te sufrí, ahora reposo serena mi canto. Limaste chabón con la lluvia que hay. ¿Querés que me quede allá afuera? ¿Querés que me quede allá afuera? Veneno en mi valle, te hace falta más coraje. Vengo vestida de diabla, paseo por tu calle. Llevo un vestido Versace, sé que hará que te raye. No hace falta que te vaya, nena, afrontame. Te hace falta coraje, te hace falta coraje. Te hace falta coraje. Derrito medalla pa' convertirme de oro y olvidar todas las rayas que te volaste ayer. Voy a perderme a la pana en busca de placeres. Yo callaré, me dijiste no fallaré. Tuviste la belleza. Te hace falta coraje, te hace falta coraje, te hace falta coraje, te hace falta coraje, te hace falta coraje, coraje, coraje, coraje, coraje, coraje, coraje, coraje, coraje. Soy la mulata, tengo la boca de plata. Yo que estaba enamorada, te cantaba serenata. Acordate que soy Natalia, reina de la vigilia. Deja que te combata ya. Ah, no, te hace falta coraje. Te hace falta. porque te asustaste? ¿Acaso no te comí a beso? ¿Acaso no te llené el vaso? ¿Acaso no deberías perder el miedo vos mismo para evitar el fracaso, eh? Te hace falta coraje, te hace falta coraje. And the wall. Spero vi sia piaciuto l'ascolto di queste due canzoni, non ve l'abbiamo detto, sorpresina. La seconda era Florence and the Machine, Dog Days Are Over. Direi anche questa volta Lady J, ma non solo lei, perché abbiamo contribuito un po' tutte questa volta alla scelta musicale, sempre molto azzeccata e in linea con la nostra tematica della puntata. Allora, come ribelli avevamo pensato appunto, per introdurre la tematica di oggi, di parlare un pochettino del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne e contro la violenza di genere, perché appunto poi in particolar modo, non una di meno, il nodo di Milano, la città dove noi siamo, e Degenerazione hanno appunto attivato tutta una serie di percorsi, eventi proprio per di avvicinamento a questa data. Prima però volevamo anche ricordarvi un pochettino perché ci sta particolarmente, doppiamente a cuore questa tematica. Nel corso del lockdown si è assistito a un aumento delle violenze e dei femminicidi, proprio perché la costrizione nelle case spesso ha visto donne rinchiuse con persone che usavano loro violenza, ed è per questo che proprio durante il primo lockdown, da marzo a maggio, i centri antiviolenza hanno visto aumentare la richiesta di aiuto del 74,5%. E l'incidenza dei femminicidi è passata dal 35 al 45%. Sempre sulla base di dati a volte più specifici, appunto legati al lockdown, ma anche in linea più generale, una donna su tre in Italia ha subito violenza, e nel 90% dei casi la violenza è agita proprio dal partner o dall'ex partner, che possono essere fidanzati, mariti. E spesso, ovvero il 62% delle donne che ha subito violenza ha tra i 30 e i 49 anni. Noi come ribelli ci tenevamo a ricordare un po' questi dati, che non devono essere presi proprio come dei semplici numeri, ma devono essere rappresentativi di una struttura della società in cui viviamo. Noi ci teniamo a ribadire che la violenza sulle donne e la violenza di genere non è un fenomeno. Il nostro sistema, quello in cui noi siamo immersi, il sistema capitalista insieme al patriarcato, fa in modo di tenerci oppresse in questo modo, ed è per questo che la violenza è considerata sistemica. E molto importante, ci tenevamo anche a ribadire e a ricordare a tutte le persone in ascolto che è attiva la rete Dire, che sono appunto è una rete di centri antiviolenza nazionale, che però unisce specifici centri, quelli che garantiscono prima di tutto l'anonimato e hanno un approccio soprattutto transfemminista. In particolar modo a Milano abbiamo il CADMI, il cui numero è, volevamo assolutamente ricordarlo, 02 55 01 55 19, e lo trovate anche su internet al sito cadmi.org. E l'altro centro antiviolenza che fa parte sempre della rete Dire è Cerchi d'Acqua. Il suo numero è 02 58 31 15 49, e anche questo per vedere bene quando i centralini rispondono alle telefonate, potete consultare il sito internet cerchidacqua.org. E poi volevamo ricordare, anche perché facenti parte di varie collettive che si occupano di tematiche di genere, ma soprattutto del grande lavoro che sta facendo non una di meno, in particolar modo il nodo milanese, quello che sta succedendo adesso in vista del 25 novembre. In modo anche abbastanza ironico, non una di meno ha deciso di lanciare la zona fucsia, proprio come l'avrebbe potuta annunciare il nostro caro Conte, quindi con un non un DPCM ma un NUDM. E appunto, proprio per contrastare la violenza strutturale e sistemica che abbiamo in Italia, è stata istituita una zona fucsia dove sono previste tutta una serie di norme che vanno a garantire una sicurezza, una stabilità economica, vanno a garantire la salute dell'individuo e soprattutto portano alla prevenzione alla violenza. E ora lascio appunto la parola a Sveva, che ci legge il testo con cui non una di meno va a chiedere questa zona fucsia. Il 25 e il 28 novembre 2020 saranno ancora una volta giornate di lotta contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere. Sentiamo forte l'esigenza di tornare in piazza perché sono prima di tutte le donne a pagare il prezzo dell'emergenza sanitaria in corso. La pandemia e la sua gestione sono due facce della stessa medaglia, proprio perché il corpo delle donne e gli ecosistemi hanno condiviso e condividono uno stesso destino. Sono trattati come risorse gratuite ed inesauribili, disponibili all'appropriazione e allo sfruttamento per alimentare un modello sociale di sviluppo violento e senza rispetto per la nostra vita. Questa violenza sta arrivando oggi a un punto di non ritorno. L'emergenza sanitaria ne è solo un segnale. I numeri parlano di vite a rischio e di responsabilità collettiva, ma non siamo tutti sulla stessa barca. Le conseguenze del lockdown si misurano nei dati della violenza domestica, destinati ad aumentare ancora con le nuove misure di confinamento. I centri antiviolenza femministi e le case rifugio hanno dovuto fare fronte a un'emergenza nell'emergenza per non lasciare nessuna da sola. È sempre più urgente far sentire la nostra voce contro l'aumento vertiginoso di stupri, femminicidi, violenze domestiche, omo, lesbo, bi, transfobiche che ha segnato i mesi di questa oppressione e di conflitto. Dai, Svevus. Ci siamo, un secondo solo. Momento di silenzio. In questi mesi le nostre vite sono state travolte, non ci siamo mai fermate. La pandemia ha messo in luce il nesso oppressivo tra la violenza economica e il lavoro di cura. Lo smart working ha spostato in casa il lavoro di molte, mentre il lockdown aumentava quello di cura e domestico. Il lavoro nell'assistenza sanitaria domiciliare, nei servizi, nell'educazione e nelle case si è rivelato ancora una volta il più essenziale, ma anche il più precarizzato, svalutato ed esposto a rischi di contagio. Sono in maggioranza le donne a essere impiegate nei servizi essenziali, quelli che non possono essere svolti in remoto e sono andati avanti, obbligando lavoratrici e madri a un'impossibile conciliazione tra lavoro e famiglia, tra salario e salute. Sono le donne, le persone LGBTQIA+, migranti, precarizzate e non garantite, a pagare la crisi, aumentando dipendenza economica e fragilità sociale. Il razzismo istituzionale, che ha avuto effetti pesantissimi sulle condizioni di vita e lavoro delle persone migranti, e la vergognosa sanatoria destinata ai lavoratori essenziali, ha confermato il legame tra permesso di soggiorno e contratto di lavoro, che intensifica lo sfruttamento ancora di più se lavorano nelle case. Denunciamo le relazioni di potere che si nascondono dietro la gestione della pandemia. Il ricorso sistematico al lavoro gratuito, precario o mal pagato non è corrisposta a nessuna misura di sostegno al reddito e al salario, e di inclusione al welfare, di sostegno alla cura dei bambini e degli anziani nel collasso del sistema socio-sanitario scolastico. La tenuta della sanità e della scuola mostra un sistema sociale distrutto dalle politiche di austerity e fondato sulle disuguaglianze di genere, di provenienza, di classe, anagrafiche e abiliste. Le scuole sono diventate luoghi di tensione grandissime a causa di una riapertura giocata sui banchi a rotelle, anziché sulla trasformazione delle condizioni di lavoro di insegnanti, madri e lavoratrici, e dell'istruzione di bambine e bambini. Mentre gli ospedali pubblici sono di nuovo al collasso per scarsità di personale e di mezzi, la sanità pubblica ha sospeso e affidato al privato l'ordinaria attività di assistenza per reggere all'onda d'urto dei contagi. La prevenzione e le cure oncologiche, il sostegno psichiatrico, le terapie ormonali per le persone trans, l'accesso all'aborto, già ostacolato dall'obiezione di coscienza, non ritenuti urgenti, sono stati ulteriormente limitati dal sovraccarico degli ospedali. Garantire il diritto alla salute per tutti e tutte è impossibile se non si ripristina il sistema sanitario pubblico territoriale, se non si chiude con l'aziendalizzazione e la privatizzazione della sanità pubblica e la precarizzazione del personale sociosanitario. Così come la vittoria sulla RU486, ricordiamo la pillola abortiva farmacologica, rischia di rimanere sulla carta se non si dà seguito al rafforzamento della rete consultoriale. Oggi si parla di dare ristoro a chi, nei nuovi lockdown, perderà i propri profitti. Confindustria difende gli interessi padronali come ha fatto a marzo, condannando lavoratrici e lavoratori a sacrificare la salute per un salario. Noi vogliamo la ridistribuzione della ricchezza che produciamo. Il governo italiano prepara un recovery plan per nascondere lo sfruttamento del lavoro delle donne e il loro impoverimento con la retorica dell'autoimprenditorialità. È in cantiere un Family Act che rafforzerà la famiglia patriarcale che opprime le donne e chi non si conforma ai suoi ruoli. Tutto quello che noi vogliamo, tutto quello contro cui lottiamo, rischia di essere oscurato dal governo della pandemia e della ristrutturazione della società. Il 25 e il 28 novembre ci mobilitiamo perché abbiamo un piano femminista e transfemminista contro la violenza patriarcale e pandemica. Saremo nelle piazze di molte città italiane, saremo online e offline, con azioni, presidi, flash mob, perché la posta in gioco non è soltanto la gestione dell'emergenza, ma la riorganizzazione della società che ci aspetta dopo la pandemia. Pretendiamo che le risorse del Recovery Fund vadano a finanziare sanità e scuola pubblica, a garantire un reddito per l'autodeterminazione, un salario minimo europeo e un welfare veramente universale e non familistico, per liberare le donne dal carico esclusivo del lavoro di cura. Lottiamo per un permesso di soggiorno europeo slegato dalla famiglia e dal lavoro. Lottiamo per le risorse ai centri antiviolenza femministi e per le case rifugio, aperte alle donne e alle persone LGBTQIA+, che intraprendono percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Lottiamo per un nuovo piano antiviolenza che metta al centro autonomia e autodeterminazione. Lottiamo per sostenere tutte quelle pratiche di solidarietà e mutualismo che offrono una via d'uscita alla violenza e all'impoverimento. Lottiamo in connessione solidale con il Transgender Day of Remembrance del 20 novembre. Lottiamo perché non accettiamo un sistema di produzione industriale alimentare che abusa dei corpi e dei territori, li sfrutta e distrugge in nome del profitto. Questo è il piano che noi vogliamo far vivere nelle piazze del 25 e del 28 novembre, insieme alle donne e alle soggettività dissidenti che in tutto il mondo stanno lottando. Sono queste lotte che hanno dimostrato nel corso della pandemia che il nostro lavoro è essenziale. Questo è il senso vivo dello sciopero femminista e transfemminista transnazionale. Non vogliamo essere solo una statistica sulle nuove povertà. Non siamo angeli, non siamo eroine. Se abbiamo una missione, non è quella di accudire una società che ci opprime e ci sfrutta, ma di trasformarla radicalmente. Il 25 e il 28 novembre, contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere, facciamo risuonare un grido altissimo e feroce. Se ci fermiamo noi, si ferma il mondo. Grazie mille, Sveva, sei stata fantastica. Eva, sei stata veramente fantastica. Sì, grazie. Ci tenevamo come ribelli a leggere appunto il testo di Non Una di Meno, ricordiamo, proprio perché ci sono tutte le richieste, tutte, come è scritto molto bene alla fine, quello che Non Una di Meno chiede e vuole per una società migliore. E comunque, per rimanere aggiornati su quello che fa Non Una di Meno, basta visitare la pagina Facebook Non Una di Meno Milano e vedrete tutti i prossimi appuntamenti e appunto anche in maniera più dettagliata tutte le varie richieste. E ricordo anche che Non Una di Meno ha prodotto un kit per la fuoriuscita e la prevenzione alla violenza, che trovate anche quello sia sul sito internet che sulla pagina Facebook, ed è assolutamente importante proprio per riconoscere la violenza, perché appunto non è soltanto qualcosa di fisico, a volte è qualcosa di molto più subdolo e più nascosto, e saperla riconoscere è già il primo passo per poterne poi uscire. E all'interno di questo percorso di Non Una di Meno si inserisce anche quello di Degenerazione, una collettiva queer che si occupa di tematiche di genere, e ha deciso di fare parte, di avvicinarsi al 25 novembre con una pratica a volte poco usata e un po' diversa rispetto al solito, ma come ci hanno insegnato le femministe venute prima di noi, il partire da sé. Ed è per questo che da qualche giorno sulla pagina di Degenerazione, la trovate su Facebook, potete trovare, ogni giorno viene pubblicata una narrazione, sono dei testi personali che alcune persone hanno deciso di condividere proprio per liberarsi da quella che è stata la violenza, ma anche per far sì che più persone possano magari riconoscersi in essa e a loro volta potersi liberare. Sulla pagina Degenerazione appunto potete trovarli, leggerli. Vi ricordiamo che è uno spazio safe e che quindi non saranno assolutamente tollerate parole di giudizio, parole denigranti, ma appunto è tutto pensato per la condivisione e la presa di coscienza sia per le violenze subite ma anche per le violenze agite, perché il partire da sé prevede pure che chi magari ha agito delle violenze possa mettersi in discussione e quindi eliminare comportamenti, atteggiamenti tossici. E, quindi richiedono anche il collettivo di Degenerazione invita alla partecipazione, basta mandare la propria, se si ha voglia, se ce la si sente, la propria testimonianza. E anche qui rimando un attimo la parola a Sveva, c'è il testo appunto scritto da Degenerazione per lanciare questo percorso di avvicinamento al 25 novembre. Il 25 novembre è la giornata contro la violenza di genere e la violenza maschile sulle donne. Come collettività femminista queer partecipiamo e contribuiamo come ogni anno alle iniziative, azioni e mobilitazioni messe in campo dal movimento di Non Una di Meno e del Nodo Milanese. Quest'anno abbiamo deciso di fare un passo oltre e unire le nostre voci, raccontarci. Da oggi alle 13 circa la pagina ospiterà riflessioni e racconti riguardo la violenza di genere, tutti i modi in cui si manifesta e le conseguenze che può avere in modo diverso su ognuno e ognuna di noi. Partiamo da noi perché non ci arroghiamo il diritto di parlare per altre e altri, ma con l'auspicio che questo permetta a chi è sopravvissuta di sentirsi legittimata a narrarsi. Crediamo che la condivisione sia strumento per svelare la realtà sommersa dalle violenze e trasformare la percezione spesso sminuente e minimizzante che si ha delle stesse. Crediamo anche che siano strumento utile per creare alleanze ed empowerment. Invitiamo chiunque voglia partecipare scrivendoci con un messaggio alla pagina, perché tutte le storie possano avere spazio e la libertà di essere raccontate. Postscriptum. Questo è uno spazio safe e di rispetto. Qualsiasi commento giudicante, stereotipo, pregiudizio, qualsiasi hater verrà bannato e bannata, senza pietà, perché con certa gente non si discute neanche. Sono assolutamente d'accordo. Consigliamo nel caso di seguire gruppi come Maschile Plurale o di rivolgersi a centri d'ascolto per persone maltrattanti. Ho letto anche la fine di questo grande testo. Grande Sveva! Hai fatto molto bene, ecco. Perché appunto non solo si parte da sé e ci si prende in carico anche magari chi la violenza l'agisce, quindi si dà un consiglio. Esatto. Grazie a Sveva che ha letto i testi di Non Una di Meno e Degenerazione. Io ringrazio infinitamente anche questa rete, Non Una di Meno, Milano in particolar modo, ma anche il collettivo Degenerazione, perché fanno un lavoro davvero enorme e importantissimo. Sono molto d'accordo, Giulia, su quello che hai detto. Cioè, veramente da pelle d'oca quello che avete letto, e io anche un po' da esterna questa cosa, un po' fuori dal collettivo, cioè, vi ringrazio per queste parole, perché chi le sente udire, si sente, come si può dire, protetto, no? Da una situazione che potrebbe essere quella della violenza. Eh sì, quindi... è proprio così. Si cerca di arrivare un po' ovunque, sì. Nonostante anche in questo momento magari sia un po' più difficile, ma abbiamo degli strumenti che ci permettono appunto di connetterci anche da molto lontano, e questo ci è sembrato cioè ricordare cosa fanno questi collettivi per tutti e tutto era fondamentale, soprattutto all'interno di questa puntata. Certo. Ora, per stemperare magari Tecla e Sveva, lanciamo un pochettino di musica e poi entriamo nel vivo della puntata, cosa ne dite? Ma no, ma anche adesso era il vivo, scusami, non sminuiamo! No, però abbiamo un importante ospite! Sì, che è qua! Ok, allora vi auguro buon ascolto anche questa volta. Dici i titoli! Ah, perché sai, a volte mi dicono, ma no, lascia la suspense, no? Però va bene, tu me lo chiedi e lo faccio. In This Moment, sì. Sex Metal Barbie. Sì. Sex metal Barbie homicidal queen. una storia infinita. Quasi mai, quasi mai ho goduto tra le braccia dell'inferno che mi dai. Quasi mai, quasi mai il tuo silenzio uccide un cuore andato in cenere. Quasi mai, quasi mai mi hai guardato più forte negli occhi e mi hai detto chi sei. Lo sai che quasi mai il vero amore lascia i lividi. Mai per amore, mai per amore mi lascerò per te. Per amore, guardami, cerco la luce di noi nelle lacrime. Quasi mai, quasi mai io ti cerco nelle notti e chiedo ai sogni dove sei. Quasi mai, quasi mai in questa storia andata male io ti ho detto addio. Come mai, come mai la vendetta che stringi nei pugni è la tua malattia. Lo sai che quasi mai il vero amore può dividerci. Quasi mai, quasi mai mi hai guardato più forte negli occhi e mi hai detto chi sei. Lo sai che quasi mai il vero amore lascia i lividi. Come mai la vendetta che stringi nei pugni è la tua malattia. Benvenuti su Radio Ribelli, sono le 17.45, siamo direi con i tempi super ok, e fuori c'è la nebbia, e non so perché ma mi piace fare, dire le previsioni, raccontare il tempo, guardare dalla finestra, rendere un po' partecipi i nostri ascoltatori nel vivo della puntata, no? Cioè se non va bene ditemelo, ragazzi. No, invece era una visione molto romantica. Va benissimo. Romantica va benissimo. Nel senso Sturm und Drang. Sì, sì, io a me non verrebbe mai in mente, ma è molto sono colte le femministe. Devo dire che fuori non c'è nessuno, siamo in quarantena tutto sommato e noi ci teniamo compagnia così a fare un po' di radio. Brava. Allora, abbiamo già sentiamo già la voce di Stefania, che ormai è in puntata con noi dall'inizio. Io direi benvenuta Stefi, come stai? Tutto bene? Beh, intanto grazie a te, Tecla in prima persona, che conosco anche offline, come amo dire. Io lavoro molto con i social e quindi distingo le amicizie da offline a quelle online. Ringrazio Tecla e ringrazio la radio, le Ribelli, delle persone, delle due ragazze che ci hanno introdotto alla puntata, ma non perché devo rendere ingigantire ancora di più il mio ego, che già è abbastanza vero ingigantito di per sé, ma per dare spazio a un argomentino così dolce, tenero, delicato come la violenza sulle donne. Grazie ragazze, scherzi a parte, vi ringrazio, ce n'è sempre bisogno. Guarda, se tu mi dai il permesso, io vorrei leggere una piccola bio che tu mi hai inviato e che io ho un po' ritoccato, devo essere sincera, per dargli un po' di pittura. Hai fatto per benissimo. Per dipingerla un po', va. Hai fatto benissimo. Ti ringrazio, Tecla, grazie. E allora, ve la leggo subito, signori. Allora, Steffi Pastori Gloss scrive a tempo pieno tra James Joyce e Ungaretti. Ghostwriter per chiunque abbia idea. Battutista di Carlo Verdone, signore e signori. Come dice Steffi, solo una femminista come me può scrivere i più biechi dialoghi maschilisti del suo film Gallo Cedrone del 1998. È vero, confermo. Da oltre 10 anni oggi si occupa... Scusami, Tecla, se ti interrompo. Non solo una femminista può scrivere cose maschiliste, ma usare l'ironia, perché per paragonare, esatto, qualcuno più grande di me, Dostoevsky, che diceva solo la bellezza salverà il mondo, io dico sarà l'ironia e l'autoironia a farlo. Grazie, fai pure te. No, ma poi sono tutte cose che adesso scopriremo nel corso della nostra chiacchierata. Ok. E poi dicevamo che da oltre 10 anni oggi Stefania si occupa di azioni di contrasto contro la violenza sulle donne. Grazie, direi, ecco quale ironia, grazie ad un ex partner la si può fregiare dello pseudonimo di Gloss, gruppo di lavoro e osservatorio sessismo e stalking. Nel 2013 esce Corpi ribelli, resilienza tra maltrattamenti e stalking, e nel 2020 è totalmente riscritto, diventa Rinascite ribelli, hashtag siamo tutti Joker, che poi ci spiegherai, in cui è dato risalto al cosiddetto codice rosso. Steffi ha trasformato il problema pandemia in opportunità, creando un nuovo spicilegio poetico parerga violenti, abbellimenti lessicali pleonastici perfino alla lotta contro la hashtag violenza sulle donne. Ebbene, ora io direi, Steffi, partiamo da questo presupposto che innanzitutto amo il tuo modo di scrivere, perché parli di violenza con leggerezza ed ironia, che non vuol dire superficialità, frase che ormai è girata su tutti i social in questi giorni, o no? E va, brava te, ma non è mia, lo sai. Lo so, però l'abbiamo fatta girare... L'abbiamo fatta girare perché direi che proprio descrive benissimo il modo che hai di scrivere, di raccontarci. E quindi direi, veniamo subito alla prima domanda che mi viene da farti. Sì. Come mai questo pseudonimo Gloss, che poi vuol dire lucentezza, lucente, no? Come te, d'altronde. È troppo buono. Vabbè, l'acronimo l'hai già spiegato. Che poi da qui che parte la tua storia, giusto? Sì, perché come io dire? Vengo come scrittrice dal punto di vista professionale dal cinema, dal cinema degli anni 90. È lì che mi sono messa alla prova come scrittrice dal punto di vista professionale. Poi è successo un fattaccio, che non so se è il caso di dire oppure no, dopo il quale ho capito di essere stata salvata, letteralmente salvata, come dicevano prima nelle letture dell'UDI, dell'Unione Donne Italiane, e di non una di meno, non sono i migranti a farci del male, come vorrebbero farci insegnare, capire in mass media, ma sono quelli che ci teniamo in casa, mariti, padri, figli, fratelli, mariti e soprattutto ex mariti che ci fanno del male. Io all'epoca credevo di essere una mosca bianca e poi in realtà ho cercato di capire che cosa stesse succedendo e l'ho fatto tramite la scrittura. La scrittura per me è stata una forma di terapia. Per inciso, il libro, sì, il primo libro, Corpi Ribelli, nasce da un gruppo di donne su Facebook che avevo creato per poter dare a loro uno spazio protetto dove confidarsi, perché voi sapete probabilmente come funzionano i gruppi Facebook, cioè tutti sanno che c'è il gruppo ma nessuno può leggere gli interventi e cosa viene scritto all'interno del gruppo, e io dovevo intervistare di persona le donne che facevano richiesta di entrarci, perché erano tutte donne maltrattate, magari ancora in corso di maltrattamento, magari ancora, come nella stragrande maggioranza dei casi, convivente col proprio picchiatore, e quindi dovevo evitare di permettere a un fake di entrare nel gruppo e magari combinare quello che già fa nella vita reale, farlo anche online. Queste signore erano tutte maltrattate. Ci siamo scelte questo acronimo perché comunque è stato un vero e proprio gruppo di lavoro, nel senso che si condividevano le proprie esperienze per cercare di incoraggiarsi a vicenda e cercare di trovare il modo anche per uscire dal maltrattamento che stavano subendo in quel momento lì. Ma poi ci piaceva tanto il riferimento al gloss, perché queste donne erano tutte lucidate a son di botte. Ecco qua. E poi anche perché, non so se si vede, no, voi non potete vederlo perché siete in radio, però il gloss in inglese può anche voler dire rossetto. Di solito le donne maltrattate hanno l'autostima sotto i piedi, proprio perché il maltrattante le affossa, cerca in tutti i modi di affossare la loro brillantezza, la loro lucentezza, e il velo di rossetto può rappresentare una voglia di rinascita, di tornare a riacchiappare la propria autostima, e di conseguenza indossare un velo di rossetto può essere ideale, diciamo, terapeutico. Ecco, non so se ho risposto. Certo, come anche il truccarsi d'altronde, no? Sì. Ecco perché poi hashtag siamo tutti Joker, non so se sto facendo un collegamento che potrebbe entrare in tutto ciò. Diciamo che tutto c'entra. Tutto c'entra. Non è per quello. No, sì, comunque in realtà devo dire che hai risposto alla nostra domanda. Non so se le ragazze, le compagne sono venute in mente delle domande, io adesso non, purtroppo non posso vederle, perché ricordiamo al pubblico e agli ascoltatori che io sono in collegamento Zoom. Sì. Quindi, ladies, vi sono sorte le domande per caso anche a voi? Ma per ora no, io sto ascoltando estasiata e ripeto che veramente Steffi è di una bellezza travolgente. Come... Sì, sei proprio travolgente, sia nell'aspetto ma anche in quello che dici, perché si vede che è proprio importante e parte di te. Quindi sì, sono un po' estasiata al momento, però sicuramente qualche domanda mi verrà nel corso della... Ma io sono molto puntata. Contenta, sono molto contenta, Giulia, che tu abbia detto questo, perché sono le parole che ripeto a Stefania un sacco di volte, che mi vuol dire che questa è una cosa che lei trasmette a tutti. Sì, subito, però allora doveva venirmi in mente un'altra parola, che così almeno variavamo un po' sul tema. Va bene. Okay, andando avanti, procedendo con la nostra chiacchiera, Stefi, io adesso direi che è arrivato il momento di parlare del 2013, quando, appunto, come già hai appena citato, arrivano i due libri, no? Corpi Ribelli e il suo continuo nel 2020, quindi super recente, Rinascite Ribelli, resilienza tra maltrattamenti e stalking. Dove tra l'altro parli del codice rosso, che magari non a tutti è noto. E al telefono io mi sono segnata questa frase perché mi colpisce. Mi hai detto che per mancanza di cultura aumenta la violenza di genere. possiamo dire che di cultura ne troviamo a valangate nei tuoi libri, giusto? Quindi io direi, parlaci un po' di questi libri e di che cos'è il Codice Rosso, perché lo hai inserito, insomma, qual è un po' la tua missione? Ecco, hai usato la parola giusta, missione, per quello che mi vedete così passionaria per questo argomento, perché ormai dopo tanti anni, ragazzi, ragazze, sono quasi 14 anni l'età di mia figlia, che me ne occupo, quindi non è da ieri. Ovviamente sono partita da zero, è vero che sono filosofa, ma il filosofo non studia la violenza di genere, perlomeno non così in modo specifico, e l'ho cominciato a studiarlo proprio perché ne sono uscita da una violenza intrafamiliare e siccome, come ho accennato un po' prima, mi sono sentita letteralmente salvata dalle istituzioni, sia quelle statali, le forze dell'ordine, udite udite, e poi vi dirò perché dico udite udite, sia perché ci fu un'associazione cattolica religiosa che mi nascose dalle sgrinfie del picchiatore insieme a mia figlia disabile, che all'epoca aveva poco più di un anno. E quindi in quel convento lì, mentre cercavo di mettere insieme i pezzi di me stessa, ho capito che avrei dovuto rendere il bene che avevo ricevuto tramite i miei talenti, quelli che avevo già accumulato nel corso degli anni, come grafica pubblicitaria, come comunicatrice in generale, come attrice, come scrittrice per il cinema. E ho capito che avrei dovuto aiutare le donne maltrattate a uscirne prima che sia troppo tardi. E questo vuol dire prima che vengano ammazzate, ragazzi. Esatto. Questo è l'obiettivo, è stato il primo obiettivo di Corpi Ribelli nel 2013, è il frutto di 4 anni di lavoro, di interviste a specialisti del settore nell'ambito dei centri di violenza, in particolare per primo proprio il Cerchi d'Acqua che avete citato voi a Milano. All'epoca abitavo a Milano, in pieno centro, e ero ricca all'epoca, e con me il mio marito picchiatore era ricco, quindi è un fenomeno, chiamiamo un fenomeno trasversale, che riguarda qualsiasi strato della società, sia in alto che verso il basso, anche dal punto di vista culturale è trasversale. Diciamo che tutti e due eravamo già abbastanza colti, eppure è successo. Quindi in 4 anni ho intervistato tutto l'intervistabile, almeno all'epoca disponibile, a partire dall'ufficio di medicina legale di Milano, perché le donne maltrattate, se non vengono ammazzate, magari le resta una qualche forma di invalidità. E all'epoca c'era il problema di riconoscere l'invalidità alle donne maltrattate, soprattutto riconoscere il fatto che avessero subito una qualche forma di violenza, anche solo tra virgolette psicologica. Perché dico solo tra virgolette? Perché in realtà la violenza fisica che riguarda il corpo crea sicuramente cicatrici, ma le cicatrici del corpo guariscono. Quelle psicologiche, della mente, dell'anima, non guariscono, ragazze. Rimani depressa a vita, e di depressione ci si muore. Il Codice Rosso, arriviamo a parlare di Codice Rosso a questo punto. Nel frattempo, cioè dal 2013, in cui è uscito Corpi Ribelli, in cui insieme a questi espertoni dei centri di violenza, della medicina legale, abbiamo individuato delle criticità relative alle donne maltrattate, che fra cui c'era appunto il riconoscimento di un'abilità, di una disabilità, nel frattempo è successo qualcosa. Io sono l'ultima pedina, io non voglio salire in cattedra perché sono l'ultima ruota del carro, si è messo in chiaro, non mi va di fare hashtag la maestrina della penna rossa. No, nel frattempo la lotta delle femministe, dell'UDI, del Non Una di Meno, che tra l'altro è venuta dopo, di altri collettivi femministi, hanno ottenuto di sparare un faro su questo problema grave della società, e hanno ottenuto che venisse promulgata una legge più specifica che andasse a risolvere, o almeno parzialmente risolvere, queste problematicità che avevamo individuato assieme agli espertoni della violenza sulle donne. E questo si è tradotto finalmente in un decreto legislativo che è stato approvato nell'agosto del 2019 e che da noi io non sono un'operatrice dell'antiviolenza, ma insomma dagli operatori della lotta contro la violenza sulle donne è stato definito codice rosso. Sì, come fossimo al pronto soccorso, esatto. Questo volentieri, queste donne finiscono al pronto soccorso. E sanguinanti, quindi codice rosso può anche indicare, ahimè, il sangue esatto. Di cui impregnano i loro vestiti e gli abiti del loro picchiatore. Oppure si può parlare in termini di cromatologia, visto che sono stata tanti anni art director, il rosso non è solo il colore del sangue, ma anche il colore della passione. È anche il colore dell'emergenza, come diceva giustamente Tecla, è anche il colore delle scarpette rosse messe in piazza in occasione del 25 di novembre. Quindi è un richiamo importante quello del rosso, ne ho parlato abbondantemente in Rinascita e Ribelli, proprio perché volevo porre un accento di come si potesse rinascere dopo un maltrattamento, e oltre che a parlare di questo codice rosso. Mi sono persa. No, direi che in realtà hai risposto egregiamente a tutte le domande, quindi hai fatto un discorso lindo e pulito, ti ringrazio. Oh, grazie. Sì. E soprattutto stai dicendo delle cose molto molto importanti, di codice rosso non se ne parla poi così tanto. No, anzi, se volete entrare nello specifico, vi leggo quali sono le criticità del codice a cui cerca di porre rimedio il codice rosso. Guarda, lo possiamo vedere. Secondo me, se non è una cosa lunghissima, possiamo farlo. Potresti farlo e poi magari lanciamo un'altra canzone, un altro po' di musica. Sì, lasciamo adesso la canzone, lasciamo adesso, perché magari gli ascoltatori si sono un po' stufati. Allora io di ascoltare le cose, basta. Non so, parlo. Siccome anch'io tengo un podcast, e la prima critica che mi fanno è: ma fa sentire qualcosa oltre che parlare solo tu, ecco. Ma infatti direi che, ladies, compagne mie belle, io direi che mandiamo una canzone, cosa dite? Sì, scusa, io ho dovuto un attimo, perché qua fuori dalla radio comunque si muove un po' di gente per la solidarietà e stavano alzando un po' il tono, riuscivamo a sentirlo dentro ai microfoni, quindi sono andata come una vera maestra di scuola materna, quale ma sono, perché a redarguire i fanciulli. Ricordiamo infatti agli ascoltatori che siamo in diretta, quindi sì, tutto live, tutto genuino, tutto improvvisato anche a volte. Quindi sì, mandiamo una canzone e facciamo un attimino di pausa. Chadia Rodriguez, oh yeah, Federica. Wow, Cassa. Grande. Piacere, mi chiamo donna, convivo col difetto e con la vergogna, se giro con i tacchi e la gonna corta, se sono troppo magra, troppo rotonda. Mi hanno chiamato secca e balena, gridato in faccia e sussurrato alla schiena, mi hanno dato della suora, della troia, della scema, senza trucco, senza smalto e crema. Io mi piaccio così, sì. E se mi va di farlo faccio così, sì. In fondo le parole sono parole e un giorno spariranno senza rumore. Con i capelli fuori posto, senza vestiti belli addosso, anche al buio c'è una luce che ti illumina, perché tu sei bella così, perché tu sei bella così. C'è sempre qualcuno che ti aspetta e dai suoi occhi sei perfetta, ed un giorno capirai quanto eri stupida, perché sei Piacere, mi chiamo Shadia. Sono sempre stata una tipa strana. Sono cresciuta sola in mezzo alla strada, senza fare la ladra nella puttana. No. Ho fatto una corazza, un'armatura che mi protegge dalla gente e dalla paura. Io non avevo il seno grosso nella statura. Il corridoio della scuola era una tortura. Mi hanno chiamato povere fischiando. In branco ma da soli poi piango. E mi devono soldi e rispetto. Mi guardo gonfiando il petto allo specchio. Con i capelli fuori posto, senza vestiti belli addosso. Anche al buio c'è una luce che ti illumina. Perché tu sei bella. Qualcuno che ti aspetta, e dai suoi occhi sei perfetta. Ed un giorno capirai quanto eri stupida. Perché sei bella così. Perché tu sei bella così. Devi soltanto sembrare te stessa, né una regina né una principessa. Solo chi non ti ama ti vuole diversa. Perché tu sei bella così, bella così. Sarà così per sempre dalla prima volta. Ti pagheranno caro tanto chi disprezza compra. Se a loro non vai bene in fondo non è tua la colpa. Perché tu sei bella così, yala. Con i capelli fuori posto, senza vestiti belli addosso. Anche al buio c'è una luce che ti illumina. Perché tu sei bella così. Perché tu sei bella. Sempre qualcuno che ti aspetta, e dai suoi occhi sei perfetta. Ed un giorno capirai quanto eri stupida. Perché sei bella così. Perché tu sei bella così. Rieccoci. Eccoci qua, siamo ritornati, sono le 18.09, mi piace troppo dire l'orario, cioè. Ma vola il tempo con voi il ragazzi. Il tempo vola. Bravo. Quando si chiacchiera e ci si diverte. Quando si fanno cose belle. Brava. Quindi direi, ritornando subito a riprendere il filo del discorso, se finisce che ci volevi leggere qualcosa. Ah, più che altro si parlava delle criticità comuni delle donne maltrattate che le CLOS avevano messo in risalto, ma anche l'Udi ovviamente. Anche i centri di violenza avevano messo in risalto con il loro lavoro e che hanno condizionato positivamente la creazione di questo decreto legislativo denominato Codice Rosso. Queste criticità erano sostanzialmente delle criticità di natura sociale, scusate ogni tanto mi impappero persino io, che sono... Prima di tutto la mancanza di tempestività nei procedimenti penali, dell'avvio dei procedimenti penali, prima. Secondo, la necessità di inasprire le sanzioni. Terzo, la formazione delle forze dell'ordine. Quarto, l'istantanea messa in protezione delle vittime. Quinto, capacità di riconoscimento istantaneo sia da parte delle stesse donne maltrattate che delle istituzioni di taluni tipi di aggressioni, ad esempio la violenza psicologica, il tirare acido, le spose bambine, il matrimonio combinato tra famiglie, le foto osè, chiamiamole così, ecco, e la loro pubblicazione sui social, e non da ultimo le mutilazioni genitali, come reati punibili penalmente. All'epoca non si riconoscevano neanche come reati tutte queste cose. Poi, 6. esigenza dell'autorizzazione ad eseguire la denuncia a tutela della donna maltrattata in nome e per conto suo da parte di familiari o estranei, perché all'epoca, prima del codice rosso, non si poteva fare. Cioè, se un estraneo o un familiare veniva a conoscenza della violenza sulla donna, non poteva fare la denuncia. 7. Doveroso trattamento clinico dei sex offenders. Per sex offenders intendiamo tutti quelli che hanno agito o che agiscono a qualche tipo di forma di violenza sull'altro sesso. Può essere il picchiatore, lo stalker, lo stupratore, fino al pedofilo, tutti i sex offenders. Allora, doveroso trattamento clinico dei sex offenders già condannati e in stato detentivo, affinché non commettano ancora in modo seriale lo stesso tipo di reato che li hanno portati alla punizione. Cioè, tutti questi personaggini, i sex offender, sono dei seriali. Prima o poi, fatta una vittima, passano a quella successiva. In caso di omicidio e suicidio, ineluttabile tutela dei minori. I minori non erano tutelati. Se c'era un genitore che ammazzava la moglie, i minori dove cacchio andavano? Non c'era la tutela. Poi, protezione di parenti, familiari e affini della vittima di sex offender, spesso coinvolti. 10. Certezza della pena. 11. Certezza della pena. 12. Certezza della pena. Ragazze, questa gente, questi sex offenders, non hanno la certezza della pena. Ammazzano le donne e poi se ne vanno in giro così, come se nulla fosse. Che brividi, ragazzi. Certo, ecco. È proprio così. E sono, diciamo, felice del fatto che stiamo raccontando di queste cose in questa puntata e stiamo dando voce a queste, queste parole. Quindi ti ringrazio, Stefi. Figurati. Io, siccome abbiamo... A me stanno arrivando delle domande tipo proprio in riferimento alle foto e videosee circa la maestra di Torino. Non so se siete al corrente, vero? Beh, sì. Del fenomeno. Sì. Mi chiedono che cosa ne pensi. Io direi, siccome abbiamo pochissimo tempo, Stefania, abbiamo un quarto d'ora, e quindi direi che vorrei anche poter rispondere alle domande, quindi direi che siccome ci manca l'ultima parte, non voglio perdermela, vorrei assolutamente che tu ci parli del quadriga violenti. Sì, è quello un po' più, diamo un tocco di leggerezza adesso. No, anche perché se posso fare una battuta velocissima, cosa penso di quello che è successo alla maestra di Torino? Prenderei quello che ha divulgato le foto SE e gli prenderei le palle a mattonate. Chiudiamo subito l'argomento. Certo. Come per minimo, per essere ben chiare e concise. Scusate. No, hai fatto benissimo. No, altro che. Grazie. Sei stata fin troppo elegante. Grazie. Quindi passiamo subito a questo scritto, io lo definirei un trattato quasi, non so come mai, ma quando l'ho letto, allora, questo nome in particolare, no? Parerga Violenti, no? Sì, sì. Scritto durante la prima quarantena, giusto? Sì, sì, sì. E tu dici, dotto abbellimenti lessicali, pleonastici, perfino la lotta contro hashtag la violenza sulle donne. E qui introduciamo un altro tema che a te è caro, cioè il linguaggio e neologismi. È vero, sì. Ti piace giocare con le parole, gli stereotipi di genere, quindi io volevo farti parlare un po' di questa cosa qui, insomma. Quindi vai. Grazie. Una decina di minuti ce li hai, dai. Allora, visto che hai citato gli stereotipi di genere, per me è un argomento carissimo. Addirittura ci ho scritto una raccolta di racconti in cui, che sarà di prossima edizione da questo meraviglioso editore che ho finalmente trovato, che lui mi ha trovato, Piccolo inciso, chi è scrittore oggi in Italia o è già famoso in TV o non vende un cazzo. Scusa. Ah, ma vai, possiamo dire un po' di parolacce. Sì, sì, sì, assolutamente. Vabbè, ecco qua, questo è il mio libro, ma tanto non si vede. Poi magari... faremo dei post. Chiederemo a Lorenzo con il podcast magari di visualizzare la copertina di Rinascita Ribelle. Allora, dicevo... questo editore, allora, chi scrive in Italia oggi deve pagare per vedersi pubblicato, non guadagna niente, usiamo l'italiano corretto, non guadagna niente e soprattutto deve pagare per vedersi pubblicato. E siccome noi autori abbiamo un ego gigantesco, siamo disposti anche a sbostare 1.000, 2.000, 3.000 euro per vedere pubblicato un libro. Questo editore invece no, non è a pagamento e io sono molto fiera di lui e lui di me, ovviamente. Tornando a Bomba, cosa ci fai qua? Apparizione. Okay, è presente. Cioè, gli ascoltatori e ascoltatrici non sanno, ma... vabbè. Non lo sanno, è apparso improvvisamente alle spalle il mio partner Fabrizio. Ciao Fabrizio! Ciao Fabrizio! Ciao. Benvenuto! E allora mi sono sentita un attimo... che ti sostiene. Che mi sostiene suonando la chitarra quando andiamo in giro insieme, in giro per l'Italia, a parlare contro la violenza sulle donne. Vittime di violenza da parte di una donna! Ma questo è un altro discorso che forse poi potremmo sviluppare in un'altra puntata. Comunque, esatto, torniamo al clou della nostra domanda. Tornando a Bomba, torniamo a Parerga Violenti. Parerga Violenti è uno spicciuleggio, cioè una raccolta di poesie, uno spiluccamento di poesie che ho scritto durante il primo lockdown e anche dopo, non è che si scrive una raccolta di poesie in 2 mesi, però la prima è nata proprio durante il lockdown, infatti si titola Focolaio, magari poi la leggerò. No, sicuramente leggerai, sarai obbligata, Stefi. Diciamo che sono tutti comunque, sono violenti perché ispirati alla violenza sulle donne. Mm-hmm. Io ho sempre l'obiettivo di creare valore con le cose che scrivo, cioè di dare sostegno e supporto alle persone che subiscono violenza. Nel caso della violenza sulle donne, ma in generale della violenza di genere, riteniamo, Fabrizio e io, che sia una mancanza alla base, risieda una mancanza di cultura del rispetto, di cultura in generale, ma soprattutto di cultura del rispetto, perché nel momento in cui noi siamo in grado di capire il valore che è insito in ognuno di noi, anche nelle persone che non gradiamo di persona, che non, con cui c'è difficile avere a che fare, anche le persone sbagliate, anche da loro c'è sempre da imparare. Ed è una questione di rispetto. Volevi dire qualcosa, Fabrizio? La cultura insita nella famiglia. La cultura in seno alla famiglia, certo, giustamente Fabrizio mi faceva notare questo. E quindi ogni volta che io scrivo qualcosa volendo creare valore e sapendo purtroppo che in Italia la lingua italiana è una lingua meravigliosa, è ricchissima di lemmi dal punto di vista lessicale, purtroppo però noi poveri comuni mortali ne useremo 500 su oltre 10.000 lemmi, non so quanti ne contenga, oh cavolare, ma ne conosceremo, ne useremo 500, 600, 800. Di conseguenza cerco sempre di utilizzare delle parole nuove alle orecchie della gente comune mortale come me, che magari appunto io non conoscevo, spicciuleggio non lo conoscevo. E sono andata a cercarmi il significato e ho voluto utilizzarlo per questa silloge, che già silloge è un po' aulico se vogliamo, però già un pochino più conosciuta, proprio per cercare di incrementare il valore, lo spessore culturale delle persone che andranno a leggerlo. Parerga è una di queste parole. Parerga è un abbellimento. È un abbellimento. cioè un abbellimento non necessario, quindi pleonastico. Per esempio, quando noi andiamo dal gelataio e prendiamo un una coppetta di gelato alla nocciola, la nocciola vera, reale, che ci mettono in cima al gelato, è un parerga, è un abbellimento della coppetta, non perché ci fa assaggiare meglio il gusto del gelato alla nocciola, quindi è pleonastico, è superfluo, però è un parerga, è un abbellimento. Questo caso parliamo di lessico, quindi abbellimento lessicale. È chiarissimo. Persino pleonastico, cioè inutile. Ho paura che sia del tutto inutile la violenza sulle donne, però ci proviamo e ci impegniamo per farlo. Ho raccontato, sì, ho detto, sì. Secondo me sei stata chiarissima, Stacy. Sì, wow, grazie. Estremamente chiara. Grazie. Anzi, è tutto molto breve, coinciso, poi è tutto curiosissimo, perché poi, cioè, letto così, parerga violenti, dotto abbellimenti lessicali pleonastici, perfino alla lotta, cioè, è incredibile. Questa è la famosa autoironia. Esatto, questa è la famosa autoironia. Io direi che adesso... Aspetta, posso dire un'ultima cosa sui parerga? Sì. Come mai mi è saltata fuori questa parola che non dice mai nessuno? Perché io sono iscritta, ero iscritta, adesso non più, a un sito di cui non voglio fare pubblicità, perché non mi hanno pagato, ho provato a dare loro l'IBAN, ma non ci hanno sentito molto. No, scherzo. No. Allora, questo sito propone ogni giorno una parola nuova, che non è necessariamente nuova, perché nessuno l'ha inventata, non sono neologismi questi, sono parole antiche che non si usano più. E un giorno mi è sbucato questo parerga, ho detto, ma andiamo a vedere che cos'è. E da lì, anche spicilegio, arriva da lì. Anche spicilegio. Boh, e quindi ogni giorno propone un approfondimento lessicale, io ovviamente da scrittrice non posso non approfittarne, tutto qua. Hanno anche un bellissimo suono queste parole, non lo so, a volte a me piace soffermarmi anche sul suono delle parole, no? Quindi spicilegio, pleonastici, no? Hanno un bel suono, molto musicale, devo dire, poetico, secondo me, a mio parere. La poesia è musica, Esatto, infatti io non vedo l'ora che adesso ci leggerai le poesie, però parlando un attimo con le altre ragazze, io direi, secondo me potremmo anche lanciare una canzone e poi chiudere con Focolaio. Con Focolaio. Proprio quella, sì. Assolutamente sì. Vado allora. Però non ti ho risposto ai neologismi, ma non importa. Ah, è vero. Perché io mi perdo, quando parlo mi perdo. Vabbè, un'altra volta. Secondo me possiamo fare un piccolo appunto allora, se ti va. Sì, quando volete. No, sì. Ma anche ora. Ora? Ah, ecco. Cosa dite voi, ragazze? Sì, assolutamente, vai. Ce la facciamo? Allora. Rispondiamo anche al neologismo? Sì. Grazie. Vai. Proprio per il discorso che facevamo prima sulla cultura, a volte... io scrivo allo scopo di innalzare la lingua, no? Ok? Per quello scopo lì che dicevamo. A volte le lingue sono come dei soli, nascono, hanno un periodo di stabilità e poi magari tramontano. Certe volte non è che alla lingua italiana vengano a mancare delle parole, però invecchiano pure male e non rendono più magari l'idea prioritaria. In Italia abbiamo dei grandissimi maestri di neologismo, da D'Annunzio in giù, uno dei più recenti è Paolo Brera, l'altro è... scusa? Gianni Brera, sì, Paolo è stato il figlio, l'ho conosciuto. Gianni Brera, che ha inventato centrocampista. Aiutami, Fabrizio, che tu sei bravo in calcio. Fuori gioco, ecco. Cioè, personaggino così che scriveva su Corriere e poi è mancato. L'altro è invece Mentana che ha inventato. Dentana che ha inventato Webety, che siamo degli ebeti del web. Vabbè. Vero. D'Annunzio che inventò la Rinascente, Tramezzino, chi più ne ha più ne metta. Allora, e visto che queste parole, velivolo, lei velivolo, madonna, ma sei coltissimo Fabrizio, velivolo, velivolo è l'invenzione di Fabrizio, di D'Annunzio. Sempre presente. Si vede che lo amo tantissimo. Siete troppo belli. Ci emoziona davvero. Vabbè, no, dicevo, quindi le lingue a un certo punto però invecchiano male e le parole perdono sostanza, succo. Quindi io mi innalzo a inventarne quando manca il significato che vorrei proprio dare a un determinato concetto. E ho inventato, non li chiamo più neologismi, ma neologiorni, perché tolgono il grammarnasi di torno. Un neologiorno toglie il grammarnasi di giorno. Ma è vero che i nostri ascoltatori non lo sanno, ma scusami se interrompo, ma tu scrivi proprio in questo modo qua, cioè usando queste parole. Sì. E quindi è fantastico. Non è così pieno, dai. In un libro ne metterò uno, due. Sì, certo. Ma diventa veramente pesante, è incomprensibile. Però leggendo si capisce, nel contesto si capisce cosa voglio trasmettere con questo neologiorno. Ecco, neologiorno è un neologismo. Bene. Però questo l'ha inventato Fabrizio, devo rendergli merito. Sì, ha inventato Fabrizio. Bene, allora Stefi, io direi mettiamo su magari una canzone, così stacchiamo, chiudiamo con una poesia, sforiamo magari di qualche minuto. Va bene, però... va bene, ci siamo. Vado. Grazie. Sono le 18:28. È volato, volà. Donne piccole come stelle, qualcuno le vuole belle, donna solo per qualche giorno, poi ti trattano come un porno. Donne piccole violentate, oltre quelle delle borgate, ma quegli uomini sono duri e quelli godono come muri. Donna, come la cori mare, chi si voglia voglia. Nessuno passa, donna, fatti legare al palo e le tue mani ti fanno male. Donna, che un santo dolore quando il freddo gli arriva al cuore, quello ormai non ha più tempo e se ne è andato soffiando il vento. Donna, come l'acqua di mare, chi si muore vuole anche il sole. siamo in onda? Siamo in onda di nuovo. Va bene, questo è il bello della diretta, si stava cercando di capire, diciamo, anche i nostri ascoltatori come poter registrare quest'ultima parte molto artistica, perché adesso la Steffi ci dedicherà la magnificenza di leggerci questa poesia, giusto Steffi? Giusto. Quindi, se avete trovato il modo di poter registrare con il telefono... Allora, Fabrizio è arrivato qua col suo alle 45 per poi partire alle in punto. Sì. No, ma adesso... No, adesso vengono... Non si sente più nulla. Tecla, Steffi, vi abbiamo perse un attimo. Ah, ok. Sì, dovete ripetere perché si è bloccato la nostra connessione Zoom, vi abbiamo perse per qualche secondo. Quindi no. Ora siamo online adesso? Sì, siamo online, stiamo andando, però abbiamo proprio perso il vostro audio. Si era bloccato la chiamata Zoom. Ok, adesso invece ci siamo, quindi sì. Stavamo dicendo che sono le 18.33, c'è un bel clima fuori per essere novembre. E io direi che siamo giunti ormai alla chiusura della puntata e magari prima di leggere la poesia, Steffi, perdonami, ma io vorrei ricordare al pubblico i canali social dove poterci scrivere. Bravissima. Durante la diretta. Sì. Allora abbiamo la pagina Facebook Radio ZM, il canale Telegram per scriverci in diretta, chiocciola Radio ZAM _ chat. Il sito web www.zam-milano.it, Instagram della radio, Radio Zammi Sud con 2 M, e poi abbiamo Instagram delle ribelli, le_ribelli_zam. E ora prego Steffi, il palco è tuo. Oh, grazie. Ma senti, vabbè, leggiamo la poesia e poi casomai daremo anche i miei contatti se volete. Sì, sì. Ah, ma certo, okay, ma no, certo. Così, tanto per... Certo. Okay. Li vuoi dare subito e poi leggi la poesia, così almeno... Sì, ma dopo. Ah, ok. No, facciamo dopo. Allora, vi leggo questa poesia. Poesia. Ah, non abbiamo fatto il discorso su poeta e via, vabbè. Poesia nata ai tempi del Covid-19. Focolaio. Parlare di focolaio ai tempi del Covid-19 parrebbe più pericoloso del flagello stesso. Non tanto perché centro di diffusione di morbo che fa meno vittime del maschilismo, ma il parlarne fa divulgazione di cultura, forse unica arma di prevenzione contro la violenza sulle donne, pertanto fenomeno negativo in una società ancora e sempre, ahimè, maschilista. Eppure l'uomo è attratto dalla donna almeno tanto quanto la donna è attratta dall'uomo. Stimati dottor Jekyll odierni, prendessero coscienza della capziosità della propria natura, attratti dal basso e dall'alto insieme. Non si tratta dell'etimo, ovvero del latino ignis e delle lingue romanze in gestazione focus, di focolare domestico e di inusitato diminutivo populus, da cui focolare trecentesco e focolaio cinquecentesco, ma della loro sorte, che pare identica. L'uno è domato, positivo e custode. L'altro è pericoloso, divampa e si propaga. E anche passando al figurato, il focolaio è focolaio di rivolte, corruzioni, crimini e omogenee amenità. Le parole sono come gli esseri senzienti dell'umanità. si scindono, si allontanano su antitesi positive e negative. L'uomo però ammazza nel corpo, la parola lo fa nella mente. Fantastica. Si sente? Io... così. Sì. Grazie a te. Grazie. Io vorrei che tu potessi anche leggercene un'altra, però mi sa che non abbiamo più tanto tempo. Non abbiamo tempo? Va bene, non importa. Ci cosa sarà. Dite, ragazze? Dai, va bene, leggiamone un'altra. No, perché ce n'è una bellissima. Qual è? Arcaico. Arcaico. È corta per quello, secondo me. Sì. Allora, aspetta che la cerco così. Arcaico. Parerga violenti. Devo trovarla pure io, ragazze. Riesci, sono altrimenti. La F. No. Che poi sciocca. Te l'avevo mandata, la trovavo prima su email. Comunque l'ho trovata, ragazzi. Eccola qua. Vai. Carico. Arcaico. L'arcaico è il primitivo, non solo l'antico di giorni, ma in posizione arretrata nella linea di evoluzione tecnica, dal sasso scheggiato alla cuspide in acciaio. Un dato termine è antiquato, non si usa più e sa di naftalina, ma se è arcaico, si disloca nella prima fase della progressione di una lingua, fa valere un modello del passato. Sostenendo posizioni arcaiche, si esprimono invece sviluppi rimasti tronchi, che testimoniano come nel terzo millennio esistano terrapiattisti che ancora non si fidano della sfera. Sussistano novax che vorrebbero figli poliomelitici. Uomini che perdurano nel diffidare delle donne, preti che temono l'eterno femminino. Bellissima. Meravigliosa. Che mia. Conclusione anche. Mamma mia. Grazie. No, grazie. Direi allora, che... vorrei citare l'editore che produrrà questo libro. Daniele Aiolfi. Saluti, lo bacio. Bravissima. Ha detto che sono particolare. Questo è poesia. Grazie. È vero. Io direi che adesso comunque sicuramente faremo dei post sulla pagina delle Ribelli, Instagram delle Ribelli, dove magari pubblicheremo il tuo libro. Potremmo anche, se ci dai il permesso, magari pubblicare anche una poesia. Sì, assolutamente. Se ci dai il permesso. È tutto il mio interesse che voi la pubblichiate, perché la diffusione, solo con la cultura combatteremo la violenza sulle donne. Quindi esatto. Assolutamente il permesso, assolutamente. Anche perché vogliamo ricordare agli ascoltatori che sotto Radio Ribelli ci sono tantissimi altri ribelli che al momento non si sentono e non si vedono, ma ci sono. Ogni volta le puntate vengono gestite tra di noi. Abbiamo la bravissima Lady J, Andrea, che si occupano della pagina Instagram, sono super brave, faranno tutto loro, ma io manderò il materiale. Posso lasciare il mio indirizzo email? Allora, io direi che ora è il momento che tu ci dica i contatti. Ok. Vai. Il mio indirizzo email è la cosa più semplice. È Stefi con la I di Imola, attenzione, non Y, Stefi con la I di Imola, siamo in Italia, fiera di essere italiana, nonostante tutto. Allora, Stefi Pastori Gloss, WS finale, 1965, quindi Stefi Pastori Gloss, 1965, ok? @gmail.com, potrete ordinarmi. Per adesso ho solo Rinascite Ribelli da potervi mandare. Potete ordinarmi Rinascite Ribelli via email che vi manderò gratuitamente con spedizione gratuita per posta. I tempi sono quel che sono, ma arrivano, l'ho già spediti tanti, e con dedica ovviamente dietro pagamento della modica cifra di 17 euro. Grazie. Okay. Perfetto. E poi hai anche la pagina Instagram, giusto? E Facebook. Sì, io ho tutti i social del mondo. Se voi cercate Steffi Pastori Gloss, la trovate su Twitter, su Instagram, su Facebook. Mi arrivano intanto i complimenti su WhatsApp, via Messenger. Meno male. E vi arrivano. Non abbiamo il tempo di rispondere alle domande, molto probabilmente. No. Beh, ma mi sa che abbiamo già un po' risposto. Sì. Però al limite possiamo anche ripubblicarle anche dal nostro, magari ripubblicando alcuni contatti e immagini che rimandano al libro di Steffi, possiamo assolutamente magari anche sottomettere nei commenti alcune risposte ad alcune domande. Questo grande. I social forniscono per fortuna un grande aiuto in questo momento. Sì, quindi è vero, non sì, mancheremo. Sì. Bene, io direi che non potremmo mandare una canzone, poi fare i saluti oppure salutarci e mandare una canzone. Ci salutiamo, che il tempo corre. E che il tempo corre, esatto. E mandiamo poi una canzone che ascolteranno da casa. E va bene. Quale sarà la canzone? Fiore mio di Andrea Laszlo De Simone. Ma prima di lanciare la canzone, certo, Giulia, io vorrei rilanciare magari i numeri da chiamare in caso di emergenza. Certamente, ci avevo anche ripensato prima a ripeterli, brava Tecla che me l'hai ricordato. Allora, per il CADMI abbiamo il numero di telefono 0255015519. Per invece il centro cerchi d'acqua 0258 3 1 1 5 4 9. Questo se aveste Perfetto. Bisogno di un supporto, di parlare, e vi consiglio anche in caso di guardare magari su internet, sono facilissimi da trovare perché magari centraline rispondono in determinati orari delle giornate in base ovviamente alle disponibilità lavorative, però anche per mia esperienza personale in quarantena abbiamo, come brigata abbiamo lavorato con il CADM in particolar modo, e fanno veramente un lavoro egregio e stupendo. Sì. Quindi è vero. Tutti esatto. Citati su Rinascite Ribelli, tra l'altro. Visto. È per forza. Anche io conosco molto bene il CADMI e confermo, soprattutto al centralino sono super accoglienti le donne, sì. Quindi non abbiate paura, ecco, chiamate se avete bisogno. E ricordiamo anche di seguire le pagine Una di Meno De Generazione, che in questi giorni sono sempre super aggiornati, sì, verso il 25 proliferano di contenuti. E ricordiamo esatto. Che noi Ribelli invece andiamo in onda settimana prossima, domenica, alle ore 17, sempre su Radio Z AM. Oh yeah! Grazie Bene. A tutte voi che avete contribuito a questa bellissima puntata, Steffi in particolar modo. È stato veramente grazie a voi. Un onore e un piacere incontrarti e conoscerti. Grazie Tecla di averla anche pensata e organizzata questa puntata. Bravissima Tecla. È stato un super piacere. E grazie a Sveva che si è aggiunta dando un bellissimo contributo. Che pirica. Grazie a tutte le ribelli grazie. Che adesso non sono presenti. Grazie a tutti. Grazie. Sì. E grazie a voi, grazie a voi ascoltatrici. Buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Presto. Ciao. Ciao ragazze, alla prossima. Ciao. Ciao ciao. Splendori astri metallici e bianchi. scuro e si illumina il cielo per farti vedere il futuro. Ed il giorno scaccia i pensieri e si muove al mattino. E ti aspetto per ore per poterti stare vicino. E di buio rapisce i tuoi giorni anche ieri passato. E ha portato via tutto lasciandoti un cielo stellato. Splendono gli